Imparo lo Zohar con Rabbi Michael ben Pesach Portnar. Parte prima, Baderek el Asulam, lezione numero 3. Pronunciando i termini nella sua lingua originale, aramaico ed ebraico, danno già forza e correzioni. Quando vieni alla lezione e iniziamo a leggere questo, ogni cosa che ti preoccupa la devi disattivare. Perché? Puoi caricarti per tutta la settimana e più. Sii accomodante e non avere dubbi, perché poi ne ricevi di più. Avere fede. Il tuo interiore non vuole lottare contro l'informazione spirituale, ma tu all'esterno resisterai. Il tuo interiore interagisce alle leggi dell'universo e riconosce l'informazione. Abbiamo fatto questo nella lezione precedente, ma non era chiaro sull'audio. E sappi che il segreto dei 7 giorni dell'atto di creazione. Quello è il segreto di 2 parzufim, Zeirampin e Nukvach, 2 unità di forze del mondo Azilut. Questo viene dal sistema operativo nell'universo. Zeirampin. Zeir significa piccolo nell'aramaico e Ampin significa volto. Arikampin significa quindi volto lungo, molta saggezza, molto kokma e Zeirampin poco kokma, e che non è così male perché è su un altro livello. Che hanno in sé 7 sfirot. Ka, ga, ti, kesed, gevura, tiferet. NHY, Netzach, Od, Yesod e Malkut. Queste sono 6 sfirot da Zeirampin e Malkut. Malkut è l'ultima. Kana I, come sopra è menzionato, che è spiegato in questi poemi dell'atto del principio, l'atto della creazione. Come padre e madre loro sono Kochma e Binah. Kochma è Abba e Binah è Ima, emanano loro, Zeirampin e Malkut. Quello che è superiore produce ciò che è inferiore, dall'inizio della loro origine alla fine della loro piena crescita. Come si comportano loro stessi durante i 6.000 anni? 6.000 anni Zeirampin e Malkut si comportano esattamente secondo le leggi per cui sono stati creati. Questo soggetto è continuamente spiegato qui nello Zohar, nella parte di Bereshit. Un sacco di informazioni abbiamo qui. Cosa ci sta dicendo Asulam? 7 giorni della creazione, quelli sono i Parsufim, Zeirampin e Malkut. Come nasce un tale sistema operativo? Durante la seguente spiegazione è stato fatto il disegno 3.1. Sappiamo che nel principio c'era solo una luce infinita, nessuna creatura, niente, ogni cosa era piena con la luce perfetta dell'infinito. Poi venne nel pensiero del creatore di creare la creazione in accordo a certe leggi. Queste leggi sono designate da sempre da più occultamenti della luce. Prima c'è un bordo bianco, puoi confrontare questo con la luce e poi la luce fa scanalature in se stessa, tutti i tipi di matrici. Là venne una scintilla di luce, proprio come con la prima cellula dell'uomo. Là viene una goccia dell'uomo e questo si scioglie con l'elemento femminile. E questo si sviluppa sempre di più. È lo stesso con la creazione. La luce fa ogni tipo di grossolanità, sempre più dura e complicata, per creare un posto alla fine per l'intera creazione, un luogo per le persone e la natura. Così è diventato il primo mondo, la prima serie di grossolani, Ogni cosa consiste di cinque, la luce consiste di cinque tipi di luce, fino al grado di grossolani. Keter, Kochma, Binah, Zeirampin e Malkut. La luce si era ispessita e nel centro della creazione, che era il punto dove la luce si ritirava in modo che ci potesse essere uno spazio senza luce. Senza luce si intende carenza, desiderio, mentre la pienezza di luce è perfezione. Poi la luce, Or, Ein Sof, viene al luogo dove la creazione sarebbe sorta, prima come un piccolo raggio in modo che le creature potessero vederlo. Prima lui deve dare un piccolo raggio di luce. Questo è stato sufficiente per dare soddisfazione alla creazione e il potere, la forza per venire alla perfezione. Così il primo mondo fu creato, il mondo Adam Kadmon. Questo era ancora un mondo molto sottile. Raggiungeva il Tabur dall'emanazione di luce. La luce Ein Sof raggiunse il punto del nostro mondo, ma si fermò al Tabur. Ci sono stati cinque di questi ricevimenti. Vedi il disegno 3.1, prima che il mondo Azilut sorgesse sotto. Prima la luce poteva essere ricevuta fino al Tabur, ed è stato attraverso il grossolano della luce che il mondo Azilut sorse. Sotto di questo ci sono altri tre mondi, Bria, Yetzirah e Asiya, e il nostro mondo. Il nostro mondo non appartiene al mondo spirituale e non è oggetto del nostro studio, ma tuttavia troviamo l'effetto del mondo spirituale superiore nel nostro mondo. Nel mondo Azilut non ci sono forze impure, né dualismo, né bene né male. Lì si trova ancora in germe, non ha ancora avuto origine. La manifestazione del dualismo inizia a Bria. Su cosa parla ora Zohar in questo principio? Lo Zohar parla del mondo Olam Azilut. Tutti noi riceviamo da Zeirampin e Malkut. Questi sono i sette giorni della creazione. Zeirampin ha sei e Malkut 1. Ogni cosa naturale ha 10, ma prima di questo ci fu la rottura dei Kelim, delle forze, del grossolano della luce. Ogni cosa che è avvenuta fino alla creazione dei mondi Adam Kadmon, Azilut, Bria, Yetzirah e Asiya è stato fatto dal Creatore o da Hashem o la luce lui stesso. Tutti questi grossolani, tutte queste matrici, sono accumulati nella luce stessa e naturalmente come risultato c'erano più forze grossolane, più veli creati sulla luce Or Ein Sof. Nello spirituale c'è una regola che dice che il superiore dà alla luce l'inferiore, per così dire fa emergere l'inferiore, lascia sorgere l'inferiore. Abba e Ima sono un grado più in alto di Zeirampin e Malkut. Abba è padre e Ima è madre, e solo padre e madre possono produrre qualcosa. Zeirampin è il figlio e Malkut è la figlia. Talvolta agiranno in altre qualità. L'intenzione è che noi impareremo questa famiglia celeste, perché come le forze operano lì, così esse operano anche nel nostro mondo. Solo che nel nostro mondo è coperto, velato. Ma come qualcosa è sopra, deve essere anche sotto. C'è un'assoluta unità tra sopra e sotto. E ogni cosa che stiamo facendo nella Kabbalah è di perseguire la stessa proporzione come sopra. Disegno 3.1. Azilut, il sistema di controllo dell'universo. Zeirampin e Malkut è il sistema operativo dell'universo, 6 e 1, 7 giorni della creazione e da lì ogni cosa viene giù. Nel nostro mondo esistono 6 direzioni, destra-sinistra, avanti-dietro, alto-basso. Questo viene da Zerampin e l'ultima è Malkut. Negli altri mondi vediamo la stessa struttura, gli stessi Parzufim, lo stesso ingrossamento della luce come in Azilut, solo più grossolana, cioè più bene e male, sembra più complesso. Prima di correggerci sembra più complicato, più velato, ma alla fine, quando la gente impara la Kabbalah, sperimenta che ogni cosa è semplice. Tu devi solo essere in grado di comprendere che, lavorando su se stessi, per tirare fuori il concetto che tutta la complessità può essere riportata a proporzioni semplici, alte e semplici, perché più è alta e più è semplice, semplice nella sua semplicità. La luce stessa, ciò che ci ha creato, è semplice. Ritorniamo allo Zohar ora. L'esperienza riguarda i campi Bria, Yetzirah e Asiya, e fuori l'uomo. L'uomo può, nella sua esperienza, nel suo lavoro su se stesso, raggiungere Azilut. I 7 giorni di creazione sono quindi Zerampin e Malkut, e quelli hanno 7 Sfirot. Ka, Ga, Ti, Enach, Y e Malkut. Zerampin è Kesed, Gevura, Tiferet, Netzach, Hod e Yesod. Ovunque sia, Zerampin è sempre 6. Lo stesso Zerampin include in sé anche la Malkut. Quando parliamo di Keter, allora abbiamo una Sfira Keter, e le 9 sotto sono come se fossero incluse in se stesso, nella forza di Keter. Sfira Kochmah ha anche 10 in sé. Da sopra lui ottiene la luce di Keter, e da sotto gli 8 Sfirot sono inclusi in se stesso. Anche Zerampin ha la sua propria forza, la sua qualità è 6, ma ha anche 10 Sfirot in lui. Keter, Kochmah, Binah, Chesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod e Malkut. La sua propria forza è su da Chesed e include Yesod. Da sopra lui finisce in Keter, Kochmah e Binah, e da sotto a Malkut. La sua propria qualità sono questi 6 Sfirot. Se noi sentiamo Chesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod e Yesod, allora sappiamo che siamo in Zerampin. Un ulteriore chiarimento del sentimento della forza dell'universo ce lo porterà lo Zohar. Binah, ad esempio, ha anche 10 Sfirot in sé. Chesed di Binah, Gevurah di Binah, Tiferet di Binah, eccetera. Binah ha quindi anche le proprietà di Zerampin in se stessa. Ima, la madre, è Binah. Nell'addome lei ha Zerampin, nel suo addome, deve venire sempre fuori. Prima c'è un po' di differenziazione e poi sempre più grossolano. Asulam dice ulteriormente in questo paragrafo che quello che leggiamo nel principio della Torah è come il padre e la madre hanno prodotto nel principio, all'origine del mondo, Zerampin e Malkut. Questo è ciò che la Torah parla e nient'altro. Non su montagne, acqua, eccetera. Ogni cosa è incentrato assolutamente sulle forze e nient'altro. Il grossolano delle luci, il sistema operativo e come l'essere umano, come la corona della creazione, può venire in somiglianza studiando il sistema operativo. Studiando lascia fare in se stesso dei solchi e lascia che gli stessi processi avvengano sotto di lei come avviene sopra, perché ogni cosa che avviene nell'alto deve essere ritrovato sotto di lei. Padre e madre hanno prodotto Zerampin e Malkut dalla loro origine fino alla loro completa crescita. Fino a quando entrambi raggiungono il proprio compimento, che Zerampin e Malkut sono pieni, l'esperienza di 10 Sfirot in loro stessi. Zerampin ha 6 Sfirot e Malkut è come la coda di Zerampin. Devono avere entrambi i 10 e poi possono venire allo stesso livello e fondersi insieme, proprio come Abba e Ima, che sono perfetti. Da AA viene la luce, la vita, quello che dà il salvataggio, e ad Abba e Ima c'è già un certo grossolano, ma sono in perfetto rapporto l'uno con l'altro, che è chiamato Zivug Lopa Sik, una fusione senza fermarsi. E Zerampin e Malkut a volte si fondono l'uno con l'altro, ma solo quando c'è perfezione, quando la severità non è manifesta in sé. Impareremo come Zerampin e Malkut arrivano alla perfezione. Certamente ogni cosa è perfetta, ma la creazione è stata fatta in modo tale che l'essere umano deve fare il tocco finale. Se non fosse così, saremmo solo dei burattini su una corda, saremmo stati come dei robot. Ora abbiamo la possibilità, con il nostro proprio sforzo, di dare il nostro contributo al nostro mondo e ai mondi superiori, per venire alla perfezione. Solo l'uomo può fare questo, perché se non mostriamo alcuno sforzo, trascuriamo le regole, eccetera, e poi da sopra non si potranno mai realizzare 10 sfirot, così Zerampin e Malkut avranno 10 sfirot, perché essi non ne hanno bisogno. Solo con la nostra stimolazione, con ogni azione che facciamo, portando la nostra preghiera su ad Azilut, e da Azilut essa va a Ein Sof, perché ogni collegamento lo passa sopra, e da sopra viene la luce Ein Sof, che per quanto riguarda le forze, corrisponde con ogni grossolano parzuf, lungo le quali lui viene giù. E alla fine viene un pochino a me, ma già attraverso il mio sforzo la luce viene a tutti i mondi, a Zerampin e Malkut. Dal basso causiamo l'unità, sopra e non nell'altro modo. Da sopra non verrà niente se non fai nessuno sforzo e qui vivi bene. È come un riflesso in uno specchio, e in quel grado in cui dici la tua vera preghiera, in cosa chiedi, cosa corrisponde con le leggi dell'universo. Quindi non egoistico, perché le domande egoistiche non vengono su. Tutti i regolamenti che ci sono dati da sopra esistono solo per portarci in accordo con le leggi dell'universo. Vivendo questi regolamenti e con la vera intenzione, portiamo man, acque femminili, su, e Mad viene giù, acque maschili. Con il tempo vedremo di cosa si tratta. Anche nel nostro mondo è la stessa proiezione. Da sopra a sotto è sempre la luce maschile, e da sotto verso sopra è sempre la luce femminile. Il governo di Zerampin e Malkut, come essi stessi si comportano, è per 6.000 anni lo stesso. La creazione non esisterà più dopo 6.000 anni. La Torah è stata data approssimativamente 3.000 anni fa e poi era già descritto che il mondo esisterebbe per 6.000 anni, perché il Creatore non poteva velare questo per le sue creature. Solo a persone molto devote, i santi, le cui anime e corpi erano in accordo con l'universo, egli aveva dato questo. Certamente non intendiamo il corpo fisico, il corpo di carne e sangue. Dobbiamo mantenere il nostro corpo proprio come i nostri vestiti, ma non più perché il tuo corpo è esattamente deperibile come i tuoi vestiti. Quindi in ogni cosa si comportano in questo modo durante i 6.000 anni. 6.000 anni significano anche 6.000 correzioni. Cos'è? Lo impareremo presto. Inoltre dice, il soggetto diventa qui nello Zohar, nel capitolo Breshit, perché la Torah completa i 5 libri di Mosè, e in capitoli classificati, e ogni settimana si legge un capitolo, e questi corrispondono con riferimento a punti di forza alle leggi dell'universo. Per esempio, Bereshit riguarda l'atto della creazione che inizia prima, nel momento quando tutte le forze del mondo vengono in equilibrio e nell'universo un giudizio viene passato. Cosa significa questo? Certamente ogni cosa è per il bene, ma se non stiamo bene, allora ci sentiamo come se ci fossimo arresi. Ogni settimana ha quindi un proprio capitolo nella Torah, che corrisponde con i punti di forza nell'universo. Quando qualcuno impara la Kabbalah e si sforza per l'Eterno, allora può, solo leggendo il capitolo della settimana, vedere quali forze sono manifestate in quella settimana. Certamente tutti noi abbiamo le nostre proprie correzioni, ogni giorno diverse da un altro, ogni lunedì è diverso dal lunedì precedente o dal lunedì che verrà, e ogni correzione da ognuno di noi è assolutamente unica, ma allo stesso tempo esiste là nel generale e nel particolare. Puoi trovare le leggi di Zerampin e Malkut anche qui, e allo stesso tempo tutto è assolutamente unico. E ora andiamo oltre con l'ultimo paragrafo. Che cosa ha detto a noi? Lo Zohar ci dice ancora della nascita di Zerampin, il sorgere di questi solchi, che è Zerampin, nella forza del mondo di Atzilut, da dove tutte le nostre correzioni vengono, tutta la nostra luce e Malkut. P1, seconda colonna, da uno dopo l'ultima regola. E Rabbi Tzitziah, uno dei 10 grandi rabbini che hanno preso parte nel gruppo attorno a Shimon Bar Yochai, ha aperto la sua bocca. L'argomento, la discussione con la spiegazione della Nukvah di Zerampin. Asulam la inizia in Ot Alef per parlarci di Nukvah. Nukvah è un altro nome per Malkut. Nukvah significa un elemento femminile. Malkut, regno, se è già cresciuta, e noi la chiamiamo Nukvah, quando lei è ancora un appendice della forza maschile di Zerampin, il suo corpo non è stato ancora costruito. A volte la nominiamo a vicenda, proprio come nel nostro mondo, prima diciamo bambina e quando è sviluppata la chiamiamo donna. Quando è piccola, Nukvah, allora lei deve crescere. All'inizio della creazione lei non ha quindi ancora il suo proprio nome, è ancora Nukvah di Zerampin, perché solo Zerampin è costruito e lei è un appendice di Zerampin. Nukvah e Zerampin, la completa intenzione è che la donna diventi indipendente dall'uomo e come risultato l'uomo può davvero apprezzarla, ma deve ancora crescere. Come effetto collaterale di ciò che stiamo imparando, una donna raggiungerà l'indipendenza dal suo uomo, perché anche così come donna deve tornare il suo cuore al creatore e non a suo marito. Il tempo è maturo che noi diventiamo adulti. E l'uomo imparerà a ottenere l'indipendenza e ad organizzarsi alle leggi dell'universo e imparerà a dare. Nel sistema di controllo dell'universo, Zerampin darà a Nukvah, farà ogni cosa per lasciarla crescere, e più tardi raggiungeranno entrambi l'indipendenza e riceveranno da Abba e Ima, padre e madre. L'uomo deve venire libero imparando a dare, imparerà quale amore può avere per sua moglie, tutto questo come un effetto collaterale. Qualcosa che non esiste nel sistema di controllo dell'universo e ciò che inventi da te stesso o con il potere e la forza di questo mondo cerca di realizzare che porta sofferenza a lui stesso e al partner e agli altri. Le persone che non riescono ad affrontare la realtà e tutte le loro percezioni del mondo li liberano nella pittura o nella scrittura, mettono lì le loro frustrazioni e andando in una libreria e leggere un tale libro o si va a un'asta e pagare milioni. Va bene per te? No, solo per l'autore o l'artista. La musica è diversa, ha meno riproduzione materiale, è più penetrato. La musica può venire da Azilut, ma può provenire anche da altri mondi, da forze impure, può uscire dal più profondo dell'inferno. E se le persone si nutrono con quello, con le forze impure da dove provengono, allora le persone si nutrono con il veleno. Zohar e Torah ci parlano solo del sistema di controllo dell'universo e nient'altro. Paragrafo 1, Aleph, seconda colonna, ultima regola. Per spiegare l'ordine di lei, Nukvak di Zerampin, emanazione di Ima. Perché ogni cosa riguarda ancora Nukvak. L'emanazione viene quindi dalla madre, che lei è la Binah che è menzionata, con il nome Elohim. È scritto con una... È scritto con una He, ma lo pronunciamo con un Kof, perché è un nome del Creatore. Quindi Binah è chiamata Elohim. Nella Torah non è scritto che Hashem abbia creato il cielo e la terra, ma Elohim. È importante quale nome è usato, perché ogni cosa che stiamo imparando nella Torah sono i nomi del Creatore, i punti di forza nell'universo, i diversi grossolani di Ein Sof e che sono i nomi del Creatore. Binah è una sfira e Ima è una parzuf. Elohim è il nome del Creatore che porta Binah. Possiamo quindi vedere processi spirituali da diverse angolazioni. Ima è parzuf dal quale sorge Nukva. Ima è anche Binah, un elemento femminile, e anche il nome Elohim che sta nella Torah. Zohar spiega la Torah, che è il progetto del processo della creazione. Per questa ragione ci indica nella lingua della Kabbalah delle forze dell'universo, riferimenti a ciò che sta nella Torah. Elohim, Hashem, quello è Ima. È quello che lui ha aperto con una spiegazione del giglio, che lei è la Nukva di Zerampin. Soshana è anche un nome del Creatore, un grossolano della luce, della dimostrazione della forza creatrice. Cosa il giglio ha a che fare con la Nukva? Nukva è imperfetta, è un'appendice di Zerampin, è appena apparsa, ancora imperfetta, e lui traccia un parallelo con il giglio. Un giglio è bello quando arriva a sbocciare, ma lei è ancora sotto le spine, lui ci dice, pungente, imperfetta. Asulam prova a portarci un po' di sentimento di cosa è Nukvah. Non importa se non capisci nulla, perché il salvataggio arriva solo da lì, attraverso Zohar e nient'altro. Non c'è altra dimostrazione del Creatore dopo Zohar. Tutti gli altri sono veli, ovviamente c'è qualcosa in esso, ma è nascosto. Tutti i corsi di Kabbalah non ti aiutano. Ti aiuterà un po' certamente, ma in modo infantile, perché hanno a che fare con fonti secondarie. Essi non trattano solo Zohar. Sono pronto a continuare con lo Zohar anche se rimane solo uno studente, ma tutti voi riuscirete. Talmud Esser Asfirot di Yehuda Ashlag è un libro di riferimento e da un libro di riferimento puoi imparare ma non diventare uno specialista. Se impari solo Talmud Esser Asfirot, allora non raggiungerai mai il tuo salvataggio. Senza alcuno sforzo non accadrà nulla, senza sforzo, senza stimoli non succede nulla. Nulla viene da sopra se non viene stimolato qui sotto. Quindi, se scansioni lo Zohar con i tuoi occhi, non ti porterà alla redenzione. Stiamo vivendo oggi nell'assoluto egoismo, quindi ci deve essere qualcosa che ha una tale forza da poter torcere la nostra natura, che può fare l'impossibile. Andare sempre sopra il desiderio della sola conoscenza. Presto imparerai a conoscere la famiglia celeste completa. Nukva e giglio. Nel modo in cui questo è scritto possiamo sperimentare un po' il giglio e in questo modo sperimentiamo lo spirituale. Ima, la madre di Nukva, Binah è chiamata Elohim. La Torah apre con Breshit bara Elohim et Ashamaim veet Arez. Nel principio Hashem ha creato e là si trova Elohim. Dobbiamo sapere quale nome sta lì, quale sfirà, quindi dovremmo trovarlo. Quindi possiamo vedere come ogni cosa viene da sopra a sotto. Lui ha aperto la sua dimostrazione con la spiegazione del giglio. Seconda frase. Che lei, lo Shoshanah, il giglio, dove parla lo Zohar, che questo è Nukva di Zeirampin, e tutti noi riceviamo da questa Malkut. E la Nukva di Zeirampin, nel periodo della sua piena crescita, è chiamata con il nome raccolta di Israel. Guarda cosa ci sta dicendo lui. La Nukva di Zeirampin è appena sorta, è ancora piccola, non ancora costruita, non ha ancora Sfirot, lei li ha, ma nel potenziale non è ancora venuta fuori, proprio come una bambina non è ancora una donna. Quindi è lo stesso con Nukva, il giglio. Così ci sta dicendo che la Nukva di Zeirampin, il primo piccolo elemento femminile nel sistema di controllo, che da lì vengono fuori tutte le creature, porta alla nascita Briah, prodotto, Yetzirah, Asiyah, l'umanità completa, i fiori e ogni cosa. Nukva di Zeirampin è detto, quando è piena cresciuta, è raccolta di Israel. Questo è anche un nome del Creatore. Come Israele qui sulla terra, come una nazione, si porta in accordo con Nukva e diventa anche piena cresciuta nella sua devozione alle forze creatrici, al Creatore. Quindi essi saranno chiamati anche Knesset Israel. Knesset Israel è Malkut del mondo Azilut. Puoi costruire la relazione con il Creatore esclusivamente e personalmente. Certamente, se non hai forza, allora ti colleghi a una religione o un gruppo. Siamo qui seduti a causa dell'unità, ma tutti devono lavorare per il suo rapporto personale, ultimo, con il Creatore. Per questa ragione noi non cantiamo e balliamo. È possibile forse più tardi, quando siamo un po' indipendenti dallo spirito di gruppo, perché se lo facciamo già, allora è un atto di adulterio e non ci porta al nostro scopo. Quando Nukva diventa grande, Malkut viene chiamata Knesset Israel, raduno di Israel. Ha poi raccolto tutti i punti di forza in se stessa. Se senti la parola Israel, non la considerare una nazione, perché se lui intende la nazione, allora lo dirà. Qui parliamo solo di punti di forza, di solchi della luce e dell'effetto che ne deriva, anche su di noi. Riguarda i mondi spirituali e non il mondo materiale. Ricordalo bene, lo Zohar non parla di persone di carne e sangue. Dobbiamo seguirlo, se non capisci qualcosa, sia lode che non capisci. Il modo migliore per vedere questo è che i tuoi kelim, le tue porte sensoriali, saranno scolpite di quello che non senti ancora. Ogni cosa viene al suo posto, ma tu devi voler ricevere e non capire. Devi comportarti come lo Zohar vuole che tu ti comporti. Devi chiedere al superiore e lasciare che il superiore ti formi e non dire come volevi essere formato. Dobbiamo organizzarci a lui. Come è scritto più avanti su, e quello è cosa lui dice. Cos'è il giglio? Quello è Knesset Israel. Secondo paragrafo. E in quella Shoshanah ci sono due situazioni. Sappiamo già che in Shoshanah giglio, Nukva sono Knesset di Israele. Situazione di Katnut, Ogni cosa che nasce è nato piccolo. Anche quando vieni qui nello spirituale devi essere anche piccolo e poi diventi lentamente più grande. Questo significa l'inizio della sua piena crescita. L'inizio di ogni gestazione è piccola, che poi lei ha solo una sfira keter. Nella piccola situazione il giglio ha solo una sfira keter, che in lei è stata inquadrata nella luce nefesh. In lei è 9, il carattere tet è anche la figura 9. Ogni cosa esiste fuori di 10. Lei ha uno sfirot. E le 9 sfirot sotto di lei sono considerate cadute fuori da Azilut, ed esse sono nel mondo Bria. Enormi informazioni ci sono state date. Lui dice che Shoshana Malkut Nukva, Giglio o Knesset Israel, ha 2 situazioni, una piccola in cui non sperimenta 10 sfirot e una grande. Nella piccola situazione Katnut, Shoshana, esiste, o Malkut, da una sfira e le 9 sotto sono cadute nel mondo Bria. Il mondo Bria è il mondo dove sono le forze pure e impure. In Azilut ci sono solo punti di forza pure. Ecco perché è Katnut, perché c'è solo una sfira. Ora ancora una piccola introduzione. Dobbiamo sempre sapere di dove stiamo parlando. Ci sono 2 cose nella creazione, luce e Kli, il destinatario. Ogni cosa consiste di 10 o 5, perché Zerampin consiste di 6. Stiamo parlando di Kli e riguarda Keter, Kokma, Bina, Zerampin e Malkut. Nel principio c'è solo un Kli, Keter. Per ottenere la perfezione abbiamo bisogno di luce nei 5 Kelim. Quei Kelim sono i serbatoi, le porte dei sensi. Se in me viene solo la luce Keter, allora ho solo un compartimento che può osservare la luce. Gli altri esistono già in me, ma non hanno ancora raggiunto la loro piena crescita. Questo è già stato trattato nel corso precedente, ma non tutti erano là. Per il testo seguente si veda anche il disegno 3.2. Keter, Kokma, Binah, Zerampin e Malkut sono i Kelim. Singolare è Kli. E sopra ci sono 5 luci, possiamo anche chiamarle Keter, Kokma, Binah, Zerampin e Malkut. Ma ci sono altri nomi per portare un sentimento in noi. La luce più bassa si chiama Nefesh e corrisponde alla sfira Malkut. Dobbiamo sempre distinguere di dove parliamo. È di Kelim o riguarda la luce? La luce è quella che riempie Kelim. Luce, Or, plurale Orot, Nefesh, è la più piccola, la luce più dura. Sopra Nefesh è Or Ruach, spirito, vento. Questo corrisponde con Zerampin. Binah è Or Neshama, anima. Kokma è Or Chayach, vitalità. Keter è Or Yekida, unità. Più tardi ti dirò cosa significa tutto questo, come puoi assaggiarlo. Zohar dice a noi che Shoshana Nukva, nelle sue piccole condizioni, ha solo una sfira, Keter. Se diciamo che qualcosa ha solo una sfira, esperienze, allora questo significa che qualcuno ha solo la forza per l'esperienza di una sfira, capisci? Gli altri sfirot sono presenti sebbene in potenza. Proprio come un embrione, ogni cosa è già lì, Keter è come se fosse emerso e gli altri sono ancora nel germe. Disegno 3.2. 2 unità nell'universo, luce e Kli. Interazione, l'avvenuta delle luci tra Kli e luce. La dipendenza invertita tra luci e Kelim. Alle luci viene prima dentro la luce inferiore. Ai Kelim c'è la ricezione prima da un compartimento superiore della luce. e in questo modo va oltre con tutte le cinque luci e i cinque scomparti di un Kli. Come fanno a venire le luci nel Kli? Da sopra. E quale luce viene prima nel Keter? Nefesh. La luce più bassa viene nello scomparto più alto, che è Keter. Quindi, se c'è solo una sfirà piena cresciuta per ricevere la luce, allora per definizione riceverà la luce Nefesh. Supponiamo che Shoshana cresca ulteriormente. Lei produce più forza e sperimenta un'altra sfirà. In altre parole, è in grado di ricevere più luce. Come funziona questo? Presta attenzione. Quando sei a casa, gioca con esso, così tu lo padroneggi bene. È sempre in questo modo. Nel Keter siede la luce Nefesh, la luce più bassa. Ora è possibile per Kochmah, il secondo compartimento, di ricevere. Lui ora ha ricevuto anche la forza. Allora la seconda luce va a Ruach, fa pressione perché lui vuole entrare, ma nel Keter siede la luce Nefesh. Più è alta la luce, più forte è la forza. Or Ruach spingerà perché c'è posto. Questa è un'enorme lezione. Se liberiamo un posto, allora la luce entra automaticamente. Non dobbiamo pensare che vogliamo ricevere la luce, ma dobbiamo fare posto e poi la luce viene automaticamente in noi. Se, ad esempio, mi sono corretto solo per Keter, allora solo la luce Nefesh viene dentro. E ora ho purificato il mio compartimento Kochmah, portato in accordo, e cosa accade ora? Perché da sopra vogliono dare a noi, a qualunque costo, ma se non possiamo ricevere, allora non può aiutarci. Quindi, se porto lo scompartimento di Kochmah in accordo, allora la luce Ruach entra, e la luce Ruach spinge la luce Nefesh, che è seduta in Keter. Questa luce Nefesh è più debole della luce Ruach, quindi la luce Nefesh si abbassa a Kochmah. E la luce Ruach entra in Keter. Abbiamo poi due luci, e in questo modo va oltre finché ogni compartimento è riempito. Zohar ci dice che nel principio fu creata la madre, e lei creò Nukva, Shoshana, il giglio, Knesset Israel, nella piccola situazione, perché ogni cosa che è e sarà nato è piccolo. Cosa significa piccolo? Piccolo significa che i suoi cinque compartimenti, ogni cosa consiste di cinque, perché la luce stessa consiste di cinque, lei potrebbe solo sperimentare Keter, e per quella ragione potrebbe solo ricevere la luce Nefesh. Parliamo sempre di due elementi, Or, luce, e Kli. È forse più facile vedere ciò come il principio di due cilindri. Vedi disegno 3.2. Come un cilindro entra in un altro cilindro, che la parte inferiore del superiore entra nella parte superiore dell'inferiore. Il superiore è poi luce e l'inferiore è Kli. La parte inferiore del superiore viene allora nella parte più alta dell'inferiore. Ogni nuova luce entra sempre nel Keter, quindi Kayach viene più tardi nel Keter, quando c'è un posto per essa, quando l'oggetto spirituale è pronto per l'esperienza. Cosa abbiamo imparato ora? Che all'inizio Shoshana è piccolo, e per questa ragione si parla del giglio e anche sotto le spine, il giglio debole, Katnut, uno piccolo, lei potrebbe ricevere solo una luce. A seguito di una domanda di un partecipante al corso. Per raggiungere una situazione adulta sono necessarie cinque fasi. Keter ha nel potenziale ogni cosa in sé. Keter lo passa su a Kochmah e la qualità di Chokmah è solo per ricevere senza input da sé. Chokmah riceve perché da sopra qualcosa sta scendendo su di lei, quindi senza il suo contributo, proprio come un bambino. Da Binah lì inizia la prima risposta sulla luce della formazione, per così dire, di una piccola piuma riposta della fase, di una piccola prima risposta della fase. Binah non vuole ricevere, lei vuole solo dare, che è una fase più elevata dopo solo Chokmah, nella formazione di luci. Le cinque fasi sono sufficienti ingrossamenti della luce per arrivare a completare lo sviluppo da qualsiasi cosa. Zerampin vuole dare e ricevere un po' perché ha padre e madre. La madre vuole solo dare e il papà vuole solo ricevere. Ha quindi imparato da suo padre a ricevere e dalla madre a dare un po'. Ogni cosa che esiste nel mondo deve passare attraverso queste cinque fasi. Anche noi dobbiamo passare attraverso queste cinque fasi per raggiungere il nostro adempimento. Malkut vuole ricevere tutto. Questo è il suo desiderio. Per Chokmah questo non è il suo desiderio. Qui è ordinario. Là viene la luce e lui la riceve, come un bambino. Ma Malkut è la fase in cui lei vede tutte quelle fasi per se stessa. Deve vederlo in questo modo. Keter è interamente nel mezzo, nel centro epico, e intorno a Keter c'è una palla di forze, proprio come gli anelli della cipolla. Prima Chokmah e poi Binah, poi Zerampin e poi l'ultimo, Malkut, la forma più dura. E Malkut vuole ricevere tutto, perché Malkut ha ogni cosa in sé, padre, madre, fratello. Ha visto che il papà vuole ricevere ogni cosa, ma senza il suo proprio contributo. Il papà lavora come un operaio in una fabbrica e Malkut vuole lavorare per sé. Binah, lei voleva solo dare, ma ha visto in Zerampin che Zerampin può dare molto e ricevere un po' e che è grandioso ricevere, e Malkut innanzitutto sceglie per la ricezione. Ma dopo, Malkut provò un senso di vergogna nel linguaggio metaforico. Un senso di vergogna significa che tu senti che ricevi e decidi di non ricevere, di non essere come un bambino e non solo come papà, per così dire. Questo significa un desiderio adulto e quella è Malkut. Lo stato adulto in ogni cosa è Malkut. Noi tutti impariamo a causa di questa Malkut. Tutte queste altre fasi, Keter, Chokmah, Binah, Zerampin, le sue qualità grossolane della luce, ma Malkut è già un prototipo dall'inizio del mondo. Per questo motivo è chiamata regno. Nella religione parlano per questo motivo anche del regno dei cieli. Parlano poi di Azilut, della Malkut di Azilut. Il regno, Malkut, ha ogni cosa in sé. Quindi ogni cosa consiste di questi cinque e Zerampin ha sei componenti, perché l'inferiore ha più variazione, più dimensioni, perché l'uomo doveva venire. L'uomo non è un angelo, deve avere tutti i tipi di sfaccettature in se stesso, altrimenti lui non potrebbe esistere in tali circostanze grezze come il nostro mondo. Grezzo rispetto ai punti di forza superiori. Essi non hanno la libertà di scelta, mentre Malkut ha in ogni situazione, in ogni componente della creazione, ha una scelta. Zerampin non ancora, deve dare a Malkut, ma Malkut naturalmente, Malkut esiste ovunque, anche per esempio in Arik Ampin, in Abba e Ima, perché ogni cosa ha 10, ma la reale Malkut, Malkut del mondo Azilut, non è compresa di Malkut nelle Sfirot rimanenti. Keter anche ha 10 Sfirot nel suo sé, ogni Sfirà ha anche Malkut in sé, ma poi è Malkut a livello di quelle Sfirà, per esempio in Binah c'è Malkut di Binah. Quindi effettivamente lei non è la vera Malkut, la Malkut è La vera Malkut è la Malkut di Azilut e ha anche 10 Sfirot, Keter di Malkut, Kokma di Malkut, eccetera. La vera Malkut è in effetti la creazione. Malkut di Azilut è infatti un prototipo. Ovviamente è già una creazione, ma esiste in forza in Azilut e poi più tardi viene a noi. Perché lo spettro luce consiste di 7? Poiché l'atto della creazione, Zerampin e Malkut, sono 7, quindi alla creazione del mondo sono 7. Dobbiamo distinguere tra 5 e 7. 7 come un risultato di cui ogni cosa è caratterizzato nel nostro mondo, 7 giorni della settimana, eccetera. Viene tutto dal sistema di controllo dell'universo, da Azilut, e ogni cosa che è sopra è anche per trovarla qui sotto. Ed è nostro compito conformarci interiormente e portarci esattamente nella stessa armonia con il superiore. Per questo motivo impariamo su Azilut. Impareremo anche Bria, Yetzira e Asiya. Particolarmente Bria, Yetzira e Asiya, perché questo è l'ambiente da dove provengono le nostre radici. In Azilut ovviamente abbiamo anche le nostre radici, ma solo nel potenziale, per quanto riguarda la forza. Ma Bria ha Gvurot, severità. E in Yetzirah là viene ancora più severità e un po' di misericordia. E in Asiya là viene sempre più e più severità. Così lui ha dovuto creare il mondo, che noi non siamo angeli, che veniamo poco a poco più in alto, non per diventare angeli, ma per esprimere la nostra preghiera, che noi desideriamo portare al superiore la nostra carenza, alla nostra mamma e papà. Il profeta aveva anche detto: chi sono mio padre e mia madre? Lui è mio padre e mia madre, Abba e Ima. Come impari la Kabbalah, capirai che hai un solo padre. Uno dei profeti era seduto ad esempio nel tempio e là fu detto: dove sono tuo padre e tua madre? Tu sei seduto nel tempio ed essi se ne sono andati. E quel profeta disse: io sono seduto qui e sto parlando con mio padre. Dove è mio padre, anch'io devo essere là. Non il padre di carne e sangue, naturalmente. Devi sempre mostrare un certo rispetto per il padre e la madre, perché sono il prototipo, proprio come sopra. Se vuoi fare bene, allora devi farlo in questo modo, anche se tuo padre è un mascalzone, un donnaiolo o un ubriacone. Dall'esterno, ma particolarmente dall'interno, devi rispettare un po', ricordalo bene. Allora insegnerai a te stesso come venire in armonia con i mondi superiori. Non arrabbiarti mai con tuo padre e tua madre, non criticarli mai. Non ti è stato dato di farlo. Avere sempre rispetto, perché con questo lavori sulla tua propria realizzazione.